sai, meglio che vada via. Questa notte io e te ci sentiremo lontani, e quando ritornerò non so se tu ci sarai. Forse tra le sue braccia ti stringerai, ma sai bene che quando parlavi con me tutto il resto spariva, tu vivevi per me. Son sicuro però che quando abbraccerai lui ti specchierai nei suoi occhi ricordando di noi. Vivono in me le parole che mi hai detto, e adesso dimmi dove sei. Vivono in me le emozioni che mi hai dato, senza risposte tu sei andata via. Giornate dentro camera mia, scherzare e ridere insieme, uniti da questa magia. E quando poi litigavamo, ti arrabbiavi con me, tornavo io a darti due baci. Oh, oh, notti senza dormire, non ha senso parlare, provo a scriverti ma tu non rispondi, e comunque non ci voglio pensare, voglio solo che tu ripenserai le parole che nessuno ti dirà. Vivono in me le parole che mi hai detto, e adesso dimmi dove sei. Vivono in me le emozioni, senza risposte tu sei andata via. Vivono in me le parole che mi hai detto, e adesso dimmi dove sei. Vivono in me le emozioni che mi hai dato, senza